адрес. Улица Железнодорожная, дом 9, автобус 7. Тебя транспортируется одна на телефонах. Осуществляем полное техническое обслуживание автономных водителей. Типа ваши дороги ничего плохо. Probabilmente è così, una cosa del genere. Oh, Magari c'hai qualcos'altro anche acceso, là. E io ben fatti zin. Acceso? Così è peggio, no? Sì, l'ultimo passaggio è peggio. Allora, così è peggio. Così bisogna lasciarlo. Ecco, così potrebbe andare bene. Ascolta, lui, ti ricordi che avevo portato quella cosa bianca a analizzare? Mi avevi detto che era a posto. Mi è uscita quasi tutta la vernice, non succede niente, oppure vuole scesa giù? Resina, no? Sì, quella è resina. Poi sfibra. Quello è il casino, capito? Fibra e ferrovino, quella è la protezione della fibra, non si dire. E se io nella scendola dalla passata di bomboletta bianca? Io, anche sì, anche quello che dà qualsiasi cosa, che ci sono delle vernici apposite, ma costano un pochino, però se vedete quella linea dai due o tre passate. Ma se ce ne riuscisse, voi sapete? Ma guarda, io non te lo ripeto più. Ah, te lo vuoi che tutto c'è un gatto d'impianto che vai a mettere e metti 60 a casa. Mamma mia, cara. Quanto vale fare un passato in bocca, cara? Perché le metti 60? Vale, metti 60. Anche prima, non te ne sei accorto perché. Vai, figlia, vai. Però di 40 anni metti 60 io. Accresci male con quello da... con l'MC50 e il mix, esci male, cazzo, esci male, buh. Abbiamo fatto le prove e andava bene, adesso ti esce male, sei tutto impattato. Ti faccio il video, 660 è questo. Adesso stai uscendo bene, allora hai toccato qualcosa tu. Forse era troppo abbassato, non so. Ciao, Cilia. Ma me l'ha detto in passato, oggi stai uscendo bene. Gliel'ho fatta correggere un po' perché all'inizio c'aveva tipo questo sotto, mi capito. Gava, ciao qua. Perché sicuramente ce l'aveva attaccato al mixer, per quello che si porta presso un sacco di rumori. Capito? Non so, sta andando bene. Gava. Quindi non gli fa niente comunque lui se io ho la vernice di bianco, no? La vernice classica normale. L'acrilica dagli allora, già, se ce l'hai a portata di mano, dagli quella. Io la giubbo sulla camera d'aria, devo immaginare, prima che si arruineggia, passano in bad anni. Ma di cosa stai parlando? Della X300? Dove vai? Tu la vernice di un muro, quella, non va tenuta. No, me ne è uscita la vernice bianca, capito, Cla? Me ne sono accorto stamattina. Bisogna lasciare con la verniciata e buco. Non è vernice quella, è un rivestimento con le lame, col sole, col tempo si rovina, niente di che, per qualsiasi tipo di vernice sopra. E infatti stavo chiedendo a Luca se si può dare una passatina di bomboletta, i bomboletti bianchi con peggio di cinesi. Mi batte sia acrilica e non sia l'acqua, già va bene. Ehi, a te risentimi. Hai tu si inteso, sì? No, me, non attacca nessuno io, no. Non sento nessuno. Vabbè, stavo chiudendo il 140. Silenziosa, ma non come dico io. Vabbè, forse perché la bocca era nuova, non so, però non è come dico io. E poi un po' di spray, di grasso, di vasellina, di isso di bianchi, boh. Ah, no, non fa niente perché la bocca in telefono è nuova, capito? Bisogna avere un po' di pazienza che si assisti, capito? Però già va bene, per me va bene, boh, non so. Ok, avanti, riprendi, rimango in quelli che spero non mi aggiro se che nel radio. Figurati quando la chiudi, penso quando la chiudi ne fai più per il bomba. No, ti ho detto quando la chiudi ne fai più, mamma mia, perché non è chiusa, più silenzioso. Però mi è stato riferito di avere un po' di roba che non si attacca così facilmente, non è mai fissa mentre la metà l'ora. Boh, arriva a passaggi, tanto prima di farla funzionare la buccio più di mezz'ora, la portante a 50 watt, non si è spenta. No, avanti Massimiliano, rimango un attimo in corrido, che mi sposto, voglio fare devo mettere a posto qua. Sì, hai vedo a posto, non c'è problema. Io siamo qua, vai giù. È strano, che sia ancora, si sente ancora. Cazzo sentire, avevi di sentirmi, non è che non ho, cazzo di lisciarti voi, cazzo sento quella alle 9:20 io, a sentire non vedo, si deve sentire, questo quell'alimentatore non la senti, io la sento quell'alimentatore, sai che non intendo come anche prima, non si sente, si deve sentire, noi non si deve sentire, però pensavo qualcosa di più, di meglio, invece mi ho sentito di più silenzioso, ma adesso vediamo se si stabilizza bene, non so, adesso c'è tutto nuovo, quindi non posso dire il contrario, K. Magari non te la ricordi, Cla, oppure ti ricordi che era più silenziosa? Non ho capito, scusa. Non sto parlando di questa, questa io non l'ho mai sentita, funziona. Non l'ho mai sentita, la prima volta l'ho sentita, la gente già vaglia un trattore, adesso no, ce l'ho fatta funzionare, l'ho messa diretta, però si sente. Dico di radio che ho avuto, ne ho sentito più silenzioso, tutto qua. Capito? Non so, io stamattina ho parlato, devo parlare, ma ho detto di avere di che già si accetta da sola, effettivamente, e anche più durezza rispetto a prima, capito? Perché adesso le boccole, l'asse, tutta roba nuova, capito? No, non ho già lubrificata, Massimiliano, c'è ingrasso di vaselina nelle punte, oserei lubrificare. Più la bruciacchia più si impassa, ma voi non ci la vivi, la vivo. Eccola qua. La sentite? Io la sento. Certo se si sente. No, infatti ti volevo dire quello, hai detto tu stesso, me la ricordo più silenziosa perché appunto di quelle radioline hai avuto più di una, così che quello volevo sapere. Oh, non lo so, avanti la Giulia. Oh, perché adesso accesa? Sì, non la senti. Sì, si sente più la televisione dell'avvento. Aspetta, chiudo la porta. Ma anche Luca l'ha intesa subito, cazzo se si sente, tu non intendi. Ma senti. Sì, stiamo ascoltando con due radio diverse, Claudio Ruggiano, no? Io la sento, la sento. Io poi la sento. Messa a un punto un po' particolare perché l'avevo già tolta e mi sono messo la linea al 430, però la sento io. Anche io già ne ho avuto, però io adesso così non ci sto facendo caso, l'ha capito, non sarà così rumorosa, io a volte manco si sentiva, non trova funzione, mi proprio poggiarmi la mano per sentire che stava funzionando, capito? Ma del 140? E allora, del 140? Io ne ho avuto, sentiva così, no, questo si sente, parecchio. No, adesso già la sto sentendo anche io. E vabbè, non si posso fare niente, non c'è idea. C'è tutto nuovo, per adesso bisogna girare. Non so come funziona, farla girare. Non so. C'è tutto nuovo. Asse, boccole, tutto nuovo c'è. Vediamo se... succede? Oh, non lo so, Sigra, non lo so. Un attimino che vado con il capiccolo. Va bene, va bene. Gappa. E che abbasso la potenza, qua siamo a punta di gasino. Bene, posso possibile, tesoro. Sì, no, perché io viaggio tramite i pullman. Capito? Quella! Oh, sì, sì, ci ho sentito. Questi cani di cattione, ecco, sono la mia. E poi sono quella che ti cedo, fare dieta, poi la faccio tipo un po', poi dico sì, vivo una volta sola, ma perché non fare dieta, tipo matta. La faccio iniziare la dieta. Hello, my friend. Vabbè, Massimiliano, intendevo la